9. Ascolta e controlla. 1. Che giorno è oggi? È martedì. 2. In che mese siamo? Siamo in aprile. 3. Che significa gratis? Significa gratuito. 4. Per piacere, che ore sono? Sono le 5.